24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le parole di Mario Draghi da Francoforte. Il presidente della BCE è tornato a rassicurare sul fatto che i leader europei renderanno nota molto presto una visione comune dell'Eurozona, precisando di essere disponibile a intervenire in appoggio del sistema bancario se sarà necessario. Le banche centrali sono infatti pronte ad agire per stabilizzare il sistema finanziario e prevenire una stretta del credito dopo le elezioni domani in Grecia, che qui varranno un vero e proprio referendum pro o contro l'euro. Ci prova Mario Draghi a infondere sicurezza. Male che vada, la BCE continuerà a garantire liquidità alle banche solvibili. Da qualche giorno si parla di un'azione coordinata fra le banche centrali, perché se domenica il voto greco non dovesse corrispondere alle aspettative, se non dovesse emergere una maggioranza favorevole alle misure di austerity concordate con Bruxelles, i mercati potrebbero reagire molto male. E non solo i mercati. A quel punto l'uscita della Grecia dall'euro sarebbe più che una possibilità. Per l'economia del vecchio continente un colpo durissimo e un colpo anche per chi, come Londra, è nell'Unione ma non nell'Eurozona. Ecco perché la Bank of England ha già annunciato che a partire dal 20 giugno verranno effettuate iniezioni di liquidità. Draghi però ha specificato come in questa fase di crisi siano predominanti le scelte politiche e che in Europa la BCE non può colmare tutte le falle del processo di integrazione. Vale a dire, Francoforte ha già fatto più di quanto avrebbe dovuto, ora sta ai governi decidere. Stesso concetto, con parole diverse, lo ha espresso il presidente della Bundesbank. Weidmann è convinto che la cifra preventivata per aiutare Madrid sia più che sufficiente, ma il punto non è solo il singolo paese. Secondo il numero uno della Buba, per invertire la marcia serve un salto di qualità, un'Europa più forte con un controllo centralizzato. Solo allora si potrà parlare di Eurobond. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I riflettori restano dunque puntati su Atene al voto domani. L'incertezza resta e le grandi aziende europee al risanamento non credono e stanno lasciando il paese. Vittorio Darol del Sole 24 Ore. Dopo l'allarme lanciato dal Credit Agricole, che ha annunciato di essere pronto a lasciare solo il 10% della sua filiale greca, Emporiki, che ha già dovuto perdere per 5 miliardi di euro negli ultimi tempi, ora è la volta del gigante della distribuzione Carrefour, che oggi ha annunciato di voler abbandonare il mercato greco e di vendere la quota restante della sua partecipazione appunto al suo partner greco, che diventerebbe l'unico elemento appunto di presenza nel paese di questa ex gigante della distribuzione, che ha deciso di uscire perché non crede appunto più nella possibilità del paese di poter ritornare un mercato interessante. Le parole di Draghi hanno fatto bene alle borse europee, tutte positive. Piazza Affari è stata la migliore. Milano, con due sedute consecutive di recupero, ha in pratica annullato il gap dell'ultima settimana e ha segnato un rialzo del 2,4%. Sugli scudi, società ultimamente molto penalizzate dagli investitori. Finmeccanica è risalita del 7,4% grazie alle ricoperture e alle trattative sulla cessione di Ansaldo Energia, oltre che sui rumors non confermati di movimenti di investitori statunitensi sul titolo. Mediaset ha messo a segno un rimbalzo del 6,5%, ma il bilancio da inizio anno resta negativo di quasi il 40% in borsa. Acquisti anche su Fiat, più 5,5%, nonostante un calo superiore alla media del mercato nelle immatricolazioni europee di maggio. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. In Spagna la recessione è senza precedenti, lo dice un rapporto del Fondo Monetario Internazionale. L'analisi dell'FMI è impietosa. La disoccupazione è a livelli inaccettabili, il debito pubblico sale con rapidità e il sistema finanziario ha bisogno di una ricapitalizzazione. Inoltre, anche quest'anno si prevede che la Spagna sfori l'obiettivo di abbassare il rapporto deficit-PIL al 5,3%. La prima mossa che l'organizzazione guidata da Christine Lagarde consiglia al governo di Madrid è l'aumento dell'IVA. E poi avanti con riforme strutturali per ridare competitività al paese e aumentare l'occupazione. I 100 miliardi che l'Europa presterà alle banche spagnole serviranno ad evitare il rischio di un contagio nell'Eurozona, ma per risolvere la crisi, sottolinea l'FMI, va rafforzata l'unione monetaria. Francesco Riccardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Europa deve agire insieme, nessuno può risolvere i problemi da solo, è l'appello all'unità che arriva dalla Casa Bianca alla vigilia del G20 di Los Cabos in Messico, dove, si apprende, l'Italia non sarà di nuovo sorvegliata speciale come allo scorso vertice di Cannes. Tuttavia, rivela una fonte vicina al Fondo Monetario Internazionale, il rischio che l'Italia diventi la prossima vittima del contagio è uno dei temi nell'agenda del prossimo G20. Intanto c'è convergenza tra il premier italiano Mario Monti e il presidente francese Hollande sulla crescita. L'euro non è al sicuro, secondo il nostro primo ministro. Ci siamo trovati d'accordo nel valutare molto positivamente quello che è stato fatto finora a livello europeo per contrastare la crisi, compreso da ultimo l'intervento a sostegno del sistema bancario spagnolo, e quello che è stato fatto per affrontare la crisi non è poco, anche se spesso non è stato sufficiente. Abbiamo infatti concordato sul fatto che gli importanti progressi fatti anche nella governance europea e dell'Eurozona non sono sufficienti a tenere l'euro al riparo delle turbolenze dei mercati. Dobbiamo quindi agire rafforzando i punti deboli del sistema. Ritorsione del Parlamento europeo sull'affare Schengen. L'Eurocamera sospende le trattative con il Consiglio UE su 5 dossier in tema di affari interni e giustizia finché i governi non riammetteranno il Parlamento nella valutazione dei motivi di ripristino delle frontiere. È stato deciso anche di rimuovere dall'ordine del giorno della sessione di luglio la proposta Coelho sulla valutazione e il monitoraggio del meccanismo di Schengen. Quest'ultimo è il provvedimento sul quale è scattato lo scontro perché il Consiglio dei Ministri degli Interni una settimana fa ha deciso di cambiare la base legale escludendo il Parlamento dal sistema legislativo di codecisione previsto dal Trattato di Lisbona. I ripetuti e inascoltati allarmi lanciati nei giorni scorsi dalle compagnie greche di navigazione costiera circa l'aumento del costo dei carburanti che mette a rischio la gestione delle navi si stanno materializzando. Ieri la compagnia di navigazione NEL, che gestisce i trasporti passeggeri e merci da e per l'isola di Lesvos, nell'Egeo orientale, ha annunciato di aver dovuto interrompere a tempo indeterminato tutte le corse dei propri mezzi a causa della mancanza di fondi. In base a un comunicato diffuso dalla NEL, lo Stato ellenico deve alla compagnia 8,8 milioni di euro in sovvenzioni mai versate, appunto per i collegamenti fra il continente e le isole greche più remote. Se la NEL non riceverà il denaro dovuto, conclude il comunicato, la compagnia non potrà fare altro che adire le vie legali e citare lo Stato per danni. Dal 1 luglio sarà Cipro a presiedere l'Unione Europea, come prevede il meccanismo della rotazione. Adaldo Kaslowski, presidente onorario di Tusen International, la Confindustria turca, abbiamo chiesto di spiegarci perché la presidenza della piccola Cipro sembra quasi spaventare la grande Turchia. No. Se lei va indietro nella storia, lei vedrà che da ormai oltre mezzo secolo abbiamo bussato le porte all'Unione Europea. Ed è soltanto nel 1994 che abbiamo firmato l'accordo doganale e nel 2004 sono iniziati i negoziati. Quindi, come vede lei, di pazienza ne abbiamo. Sono tre turni di cui i negoziati sono completamente bloccati a causa un po' per i francesi, a causa un po' per i tedeschi. Bloccati per una quarta volta per il turno di presidenza di 6 mesi di Cipro non è che alla fine sarà la fine del mondo. Crollano le vendite auto nell'Europa 27. A maggio la flessione è stata dell'8,7% con un calo nei primi 5 mesi dell'anno del 7,7%. Secondo i dati ACEA si tratta dell'ottavo mese di flessione. Male l'Italia, meno 14,3% e la Francia, meno 16,2%, mentre in Germania la contrazione si è attestata al 4,8% e in Spagna all'8,2%. Solo in UK va bene con un più 7,9%. La Commissione europea spinge per una maggiore apertura delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri disabili e pubblica una serie di orientamenti volte a chiarire i loro diritti ed aiutare i vettori ad assisterli. I casi di negato imbarco ingiustificato ai passeggeri disabili sono ancora un problema, ha commentato il commissario europeo ai trasporti Siim Kallas, il quale ha approfittato per fare chiarezza su questo tema in vista del grande afflusso di atleti paraolimpici e di spettatori disabili a Londra per i Giochi Olimpici 2012. Con questo è tutto. Vi ricordiamo il sito www.eurosport.com euronet.eu per tutti gli approfondimenti dedicati all'Europa e naturalmente il consueto appuntamento del sabato alle ore 10 con l'altra Europa. Oggi Federico Taddia si collegherà in diretta con Atene alla vigilia della strategica tornata elettorale. È davvero tutto, grazie per l'ascolto e grazie a Daniele Terruzzi in regia. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.